Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Rock Wave, buonasera da Maurizio Calzavara. Stasera, come ogni mercoledì, una consuetudine ormai da 5 anni e continua e continuerà, non si sa fino a quando, io spero per molto. Buonasera ai Metodica, che faranno il loro live dal vivo fra qualche secondo. Buonasera a tutti. Buonasera. Avete fatto un buon viaggio? Sì, sì, sì. Non è tanto distante, ma fino ad Verona, insomma, qualche volta capita. Esatto. Ci sono... Beh, io ho fatto il ritardatario. Non c'era neanche la neve. È quello importante. Bene, Metodica, per la prima volta, io sono molto contento per questo. Perché? Perché c'è un motivo. Ieri sera abbiamo intervistato Claudio Simonetti e Bernardo Lanzetti e abbiamo parlato del progressive, un grande ritorno del progressive nei, non soltanto in Giappone, in Germania, ma finalmente anche in Italia. Ci sono ricostituiti i Trip, si sono costituiti gli Osana e i Metodica fanno progressive. A loro, chiaramente, a loro veduta, come mai questo ritorno del progressive e come mai i Metodica hanno attinto a questo genere molto importante, molto fondamentale? Che è molto fondamentale, che non si dice fondamentale. Allora, principalmente siamo molto contenti di questa rivalutazione del progressive. Per quanto rimanga ancora un genere abbastanza di nicchia, comunque è un genere che, se non altro, sta ricevendo più attenzione di quelle che abbia avuto magari negli ultimi anni. Esattamente. E infatti il fatto che si riformino gruppi storici del progressive italiano è assolutamente una cosa positiva e c'è ben da sperare. Noi arriviamo, per quanto riguarda appunto i Metodica, arriviamo da esperienze... Esatto, qual è il vostro percorso musicale? Allora, noi arriviamo da esperienze molto varie, ognuno di noi ha il suo background artistico, per cui ognuno potrebbe fare nomi diversi di band che magari hanno ispirato il proprio gusto musicale. Passiamo dai Metallica ai Megadeth del nostro tastierista, agli U2, Simple Minds, miei, che ho preso un po' come punto di riferimento. Citerei i grandissimi Muse, ovviamente. Anche i Muse, esatto, che non sono troppo vecchi, sono abbastanza infatti, giovani. Ultimamente stiamo prendendo abbastanza spunti anche dai Muse. Però le band a cui ci ispiriamo potrebbero essere tantissime. Certo, certo. Dai God Machine, Inch Nails, musica di qualsiasi genere. E diciamo che la cosa è anche spontanea, nel senso che comunque quando iniziamo a suonare è la nostra anima che scaturisce senza pensare a oggi facciamo questo, domani facciamo quell'altro. Quindi è proprio una cosa sentita. È il bello che tutti questi generi concentrino in un'unica anima, sostanzialmente, riuscendo a scaturire, cioè fare il disco ne parla, insomma. Sì, il disco ne parla, il disco anche dal punto di vista grafico è fatto molto bene, poi della grafica ne parliamo dopo, quando sarà il momento. Quindi siete arrivati dopo tante esperienze, anche difficoltà che avete superato, a questo fantastico primo album. Che com'è? Che l'impressione dà avere un primo album già stampato, là, pronto per essere acquistato, per essere sentito? Sicuramente una sensazione principalmente stranissima. Nel senso che è una vedere l'album in uscita, di solito lo vedevi per i tuoi artisti preferiti, oppure per i gruppi che ti piacevano o per anche quelli che non ti piacevano, per dire, ma da loro fanno i dischi, io no. e quindi vedere il nostro album anche nella nostra discografia personale a fianco dei dischi dei nostri artisti preferiti era stata una sensazione, come dire, ammazza, ci siamo arrivati. Siete arrivati anche voi. Niente, è stato veramente bello. Il coronamento, più che altro, è stato proprio il coronamento di intanto un anno di registrazioni, di lavoro. Di pesantezza, cioè dal punto di vista, non pesantezza, creativa, cioè avete creato praticamente in sala di registrazione. Non è stato facile. Non è stato facile, poi ovviamente non facendolo di lavoro, ma essendo la seconda attività, effettivamente... cose sono andate a rilento per forza di cose, però è stata doppia la soddisfazione a questo punto, perché siamo riusciti a fare una cosa che avevamo in mente da molto tempo. Allora presentiamo la line up. Stasera siete in tre, però siete in cinque praticamente. Ci presentiamo allora, con gli strumenti compresi. Allora, Marco Ciscato alla chitarra. Perfetto. Massimo Piubelli alla voce, questa sera eccezionalmente chitarra acustica. Io sono Brusco Alessandro, sono il bassista del gruppo. Poi ci sono altri due componenti. C'è Marco Baschera, il tastierista, e Marco Piccoli, batterista. Batterista, che ci stanno ascoltando probabilmente, davvero. Spero proprio di sì. Speriamo proprio di sì, esattamente. Quindi abbiamo dato uno sguardo al percorso musicale di Metodica. Come sempre, come nostra tradizione, apriamo la finestra e presentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto, un pezzo molto lungo che o per motivi di tempo cercheremo di tagliare. Si chiama Neon, mi pare. Neon è anche il brano tra virgolette di punta dell'album ed è il brano che abbiamo usato per fare il nostro videoclip ufficiale. Perfetto, adesso lo sentiamo e poi ne parliamo. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock, l'onda del rock. Oh, Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, diretta rockway.altervista.org, stasera ci potete vedere e sentire. Ringraziamo il nostro staff, Michele Toson che è in regia, e Roberto Badi che cura la webcam, la Chiara che cura la fotografia praticamente. Poi abbiamo tre nostre affezionate ascoltatrici, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, e Alberto Prisco che è stato il nostro organizzatore, il nostro direttore artistico che vi ha portato qua stasera. Che ringraziamo Alberto chiaramente. Ok, abbiamo sentito il primo pezzo, questo Neon, questo colpo allo stomaco, questa apertura della finestra, questo Emerson, i primi secondi di Emerson e poi il resto chiaramente dei Metodica. Sì, diciamo è il brano credo più immediato dell'album, infatti è quasi tutto in 4/4. Esattamente. E quindi l'abbiamo usato sia come apertura dell'album proprio per... Da una scossa, esatto. Diciamo che mette subito le carte in tavola. Esattamente. E poi l'abbiamo usato anche in versione ridotta da 4 minuti e mezzo per il videoclip. Mm. Che ci siamo voluti togliere lo sfizio di fare un videoclip. Che in realtà è molto semplice perché è stato registrato nella nostra sala prove. Però diciamo che è venuto fuori un bel prodotto più che altro perché il regista che ha curato il videoclip è Christian Biondani, che si è occupato, che lavora per MTV e ha lavorato con Laura Pausini, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, ha fatto l'ultimo DVD live di Tiziano Ferro, per dire. Quindi è ben addentrato. È proprio professionale, professionista, e quindi diciamo che pur nella sua semplicità il videoclip ha una buona resa. Certo. A noi è piaciuto molto e anche le persone che l'hanno visto hanno apprezzato molto. La redazione, abbiamo scritto nella presentazione che il titolo mi ricorda Searching for a Land dei New Trolls, era un doppio mitico album di Progressive. Anche loro partivano dal Progressive, anche se il Progressive di New Trolls è totalmente diverso dal vostro. Avete qualche attinenza a quel titolo o è una cosa, è una casualità? No, è assolutamente una casualità fatta da me, vecchio scopritore di cose. È stato un caso. Era molto bello anche visivamente. Voi curate la copertina, è una cosa molto bella. Come tutte le band di Progressive hanno sempre in cura le copertine, il libretto. Adesso si usa chiamare libretto, una volta si chiamava usare il disco. Come mai c'è questa cura? Tu me l'hai detto prima a microfono spento, ma possiamo riprendere sul discorso? Beh, nel nostro caso particolare la copertina e tutto l'artwork del libretto è molto curato, principalmente perché volevamo noi un lavoro ben fatto, essendo anche il disco d'esordio non volevamo lasciare assolutamente nulla al caso. B, la nostra etichetta discografica, che è la Underground Symphony di Alessandria, hanno una prerogativa, diciamo, non mettono parola sul lavoro, sulla musica. Loro, se a loro piace il lavoro, loro lo pubblicano così com'è. Non hanno, per dire, messo parola neanche... Interferenze, insomma. Esatto. Addirittura neanche sull'elenco, sulla lista dei brani, sull'ordine dei brani, l'hanno tenuto così com'era. Però loro tengono tantissimo alla parte visiva, all'artwork, alla copertina. Per loro deve essere una cosa proprio di impatto anche visivo. E quindi su questa cosa ci siamo trovati molto in sintonia e infatti abbiamo speso un mese per arrivare al prodotto finito, però in realtà tutti ci hanno fatto i complimenti per la confezione. È fatto molto bene, come un'attrice, come un attore che deve provare un sacco di volte per arrivare al momento giusto. E quante idee che abbiamo scartato nel tirare, perché questo mese di lavoro è stato veramente... sono arrivate un sacco di idee, un sacco di varianti e... tutti decidavamo sì, questo va bene, però si potrebbe fare così. È stato un parto, ecco, diciamo che è stata una gravidanza isterica. Però nella fase di marketing tutto è da considerare, quindi qualsiasi piccolo dettaglio deve essere curato sia nel live che poi nella parte, diciamo, appunto come artwork piuttosto che altro. Tutto ha un suo perché. Perché il pubblico, non so se mi sbaglio, e voi dovete forse mettere a posto il mio discorso, il pubblico del Progressive ama particolarmente le confezioni ben fatte. Sì. È proprio è un marchio di fabbrica quello là, vero? Le copertine degli album prog molto spesso sono molto evocative. Esattamente, sono evocative, sono ben fatte, sono ben costruite, hanno dei bei colori, curate perfettamente, perché è giusto che sia così. Sì, ma poi è bello anche avere un disco con una copertina bella, con sì, magari una soluzione grafica diversa, sempre le solite cose, sì, assolutamente giapponesi, no? Così fredde, ci vuole un po' di anima. Sì, sì, assolutamente, concordo. Concordiamo. Perfetto. E una cosa vi devo dire, questo pezzo live come lo fate? Con la stessa energia che lo ha presentato, che avete presentato nel disco, oppure con ancora più energia, con una trasgressione totale dei pezzi? Assolutamente, ancora di più. Ah, bene. Assolutamente. Sì, nei live il pezzo, i brani, anzi, perché comunque tutto il disco ha una sola 10 pezzi mi pare, vero? No, sono 7 sì. 7 proprio ci sono. Sì. No, 7 esatto, più 3. È stata proprio una decisione. 7 più 3, volevo dire questo. 7 in ogni caso, 7. 10 non ci stavano, troppo sì, lungo. E stavo dicendo, sì, l'energia che forse nel disco può non essere colta, o nei live è molto più forte, più sentita, è molto più vissuta. Molto, certo, molto più vissuta. Sia scenicamente che quindi sia l'impatto, oltre che della musica, anche diciamo dei personaggi, di questi 5 personaggi che raccontano se stessi in quel momento, quindi ognuno si esprime come vuole. E le due cose stanno piacendo, ecco. Bene, è una cosa assolutamente positiva questa. Sì. Non so, cosa abbiamo in scaletta? Un altro pezzo da disco? O facciamo, cosa dici Michele? Un altro pezzo da disco? Che traccia abbiamo scelto, ti ricordi? La numero 5, ok. Sentiamo un pezzettino della traccia numero 5 e dopo ne parliamo, va bene? Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. We'll be right back. reach of your clutch. You're stuck between my ribs and out the reach of my touch. You are my broken bones. You are my blurred sight. You are the tar in my lungs that makes me cough at night. You are my twisted heart, blind and deaf to any call. You are the nail in my head. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. La bellezza dei, dei pezzi progressive è la suite, le famose suite. Belle, sono lunghe, però hanno una certa bellezza insita che si sviluppa. Parte 1, parte 2, parte 3, ah, sì. Cioè, anche voi l'avete. È come un'opera. È come un'opera, esatto. Io ho notato questo, e stiamo parlando a microfono spento, che fino al pezzo numero 3, che c'è il pezzo che poi sentiremo sempre da disco, mi pare, perché la ragazza qui in mente non c'è, la vocalista, sì, sì, sì, che è molto brava, da prendere, la citiamo, possiamo citare. Certamente. È Angela Merlin, che appunto ha cantato Heavenland, che tra parentesi è stata composta appositamente per lei, perché benissimo. All'inizio non era previsto come brano. Poi io la conoscevo, sapevo come cantava, gli altri ragazzi di Metodica l'hanno sentita cantare, hanno detto ok, la va facciamo bene per cantare voi. Nell'album, esatto. E è nato questo pezzo proprio appositamente per farla cantare nel nostro album. Benissimo, quindi la traccia numero 3 dà una specie di spartiacque e poi lentamente e progressivamente le cose si attuenano un pochettino, c'è una decelerazione sempre virtuale, non proprio presente, però leggermente sì. E c'è più calano un po' i toni. Esatto, c'è un po' la dimensione sinfonica, un po' più il progress vero e proprio, secondo me. Io la sento così. Sì, beh, diciamo che è un album comunque abbastanza variegato, pur esattamente tenendo la propria identità. E una cosa che mi è piaciuta molto, che l'hanno scritto in qualche recensione, che in effetti ci ho pensato leggendo le recensioni, subito non l'avevo notato, però in effetti è vero, c'è una specie di malinconia di fondo in tutto il disco. Questo è vero, sì. Nonostante i pezzi molto tirati, per cui ho detto sì, mi ha fatto notare questa cosa che in realtà all'inizio probabilmente non mi era sfuggita personalmente. Quando l'avete composto questi pezzi, la malinconia di fondo forse era nascosta, era molto bene, nascosta, era nascosta bene e poi si è sviluppata. Allora 22:33, siamo in diretta chiaramente qui in Metodica e come tutti i Rockway che si rispetti dobbiamo suonare, siamo pronti a suonare. Sì. Ok, Che cosa cominciamo questa, con questa cavalcata fino a mezzanotte, ci porterà a mezzanotte? Allora, il primo brano che suoniamo dal vivo è The Marble Column, che appunto fa parte del nostro disco. Album mm. e la suoniamo in una versione ridotta, ovviamente. E niente, adesso ve la facciamo sentire, speriamo che vi piaccia. Certamente. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Flying, but how long? Come see the fallen bones. Feels like when you watch TV, sparkles and fireworks out of reach, right behind the hills. They tell you that this had to be. They did the same to me. Treasures beyond the hills. Tonight, treasures beyond the hills. Land. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Posso dire una dimensione quasi punk, proprio dura, decisamente. Sì, un acustico rivisto. Un acustico rivisto, ma un acustico abbastanza pesante, nel senso positivo del termine. Ce l'avete messa, cioè avete ricostruito il pezzo, chiaramente in fase acustica, ma ci avete dato grinta, ci avete dato molto ritmato. Vigore, molto ritmato. Abbiamo molto cercato potente. Di mantenere comunque la nostra caratteristica. Certo. È stato difficile questa contrapposizione, questo asporto dal tema principale a un tema ridotto. Ma in realtà sembra strano, ma. È quasi venuto spontaneo. È venuto sì, spontaneo. Perché essendo molto melodici, unire strofe e ritornelli è venuto. È semplice. Semplicissimo. Esattamente. Il che ci ha fatto capire che il pezzo teneva. Cioè, regge da solo. Chitarra voce sta su e non è facile. Esattamente. Reggeva da solo praticamente. E devo dire. Quando avete registrato i pezzi, che difficoltà avete avuto? Cioè, eravate tutti concordi nel trend da seguire o c'era qualcuno o gli stessi che avevate deciso no, io lo voglio così, tu lo vuoi così, eccetera. C'è stata un'unione di intenti o un'unione di intenti è arrivata dopo, democraticamente parlando, chiaramente? No, allora, i brani erano già formati e li avevamo suonati dal vivo già da molto. Quindi avete già erano già pronti, esatto, diciamo, pronti. Che quello che abbiamo messo sul disco era quello che suonavamo già live, e l'unica cosa da decidere era un po' la cura dei suoni, magari il suono delle chitarre che poteva essere in un modo o in un altro, però la struttura dei brani era quella, e quindi è stato abbastanza facile riportare sul disco quello che era già un prodotto che comunque live funzionava già di per sé. E la difficoltà, diciamo, è stato un po' l'impatto con lo studio di registrazione. Che studio era? Dov'è? Beh, allora, intanto l'album è stato registrato agli Opal Arts Studio di Verona. E il nostro fonico produttore, nonché assistente regia, tutto quanto, era Fabio Serra. Sì, l'ho letto, esatto. Sì, proprio lui. Che c'ha, è anche grande amico, tra l'altro. Lo conosco, salutiamo. Ciao Fabio. Ciao Fabio. È stata una cosa bella perché lui ci ha conosciuto poco prima di entrare in studio, lui non sapeva chi eravamo, però nel frattempo, in questo anno di lavoro, è nata l'amicizia, lo scambio di feedback. Sì, esatto, di idee. Quindi, esatto, quindi è stato, è stato bello e... Come per dire, io personalmente non ero mai entrato in uno studio serio, diciamo, di registrazione, e con Fabio ho avuto modo anche di imparare alcuni trucchetti su come cantare, come usare i cori, alcune cose che mi ha insegnato. Ti ha dato delle dritte, insomma. Esatto, le dritte che comunque servono per migliorare assolutamente il prodotto che si vuole registrare. Diciamo, l'impatto, la difficoltà è stato un po' entrare in studio di registrazione, però poi una volta abituati alla dimensione nuova, è stato relativamente facile. Poi è andato tutto quanto, cioè l'idea era partita e via. Sì, avete proseguito praticamente. Sì, dopo magari, vabbè, strada facendo, è stata portata qualche piccola modifica, perché magari ci veniva in mente, ma proviamo ad aggiungere questo pezzo, questa parte. Però comunque dobbiamo anche ringraziare Marco, che lui aveva molta più esperienza di noi. E Marco, studio. È suonato dove? Dove avevi suonato prima? Ma io ho un po' più di esperienza di loro negli studi, perché con il mio vecchio storico gruppo all'epoca facevamo, era un inizio di crossover elettronico, ed eravamo sotto Sergio Dall'Ora, che diciamo che è il produttore della Carrà. Certo, sì. Erano i Hive, quelli di Cristina D'Avena, e lui era quello di uno di quelli. E quindi diciamo che avevo un bel po' di esperienza in studio, ho fatto anche tante altre cose per conto mio, per conto di Sci-Fam e altre cose, sì. Anche di registrazione di chitarra, e quindi diciamo che l'aspetto generale dello studio lo conosco abbastanza bene, ecco, poi ovvio bisognerebbe, ce n'è da dire tanto, però, però diciamo l'idea ce l'ho, l'idea di come registrare e che tipologie di suoni si possono tirar fuori con determinati microfoni piuttosto che preamplificatori. Ce l'ho, insomma. Avevi già una linea. Sì. Quindi hai dato una mano anche agli altri. Sì, per quello che ho potuto, sì. Anche perché poi trasmetterla talvolta non è facile, e soprattutto per chi è la prima volta che registra, non è semplice. Certamente. Sì, è difficile. Dimmi. Ecco, da Veneto praticamente esatto. Fai te e si è capito subito, sì. Tutto. Benissimo, 22:45 quasi. Io non so se siete d'accordo, facciamo un altro pezzo live e poi parliamo di altre cose. L'altro pezzo live che cos'è adesso? Allora, l'altro pezzo live che andiamo a suonarvi è sempre appunto... Rivisitato e corretto, ma non corretto. Ma in modo diverso, chiaramente. E, è Ghosts, il secondo brano dell'album. Che è duretto, quello sull'album, decisamente sì, potente. Esatto, ah, sì. È abbastanza grintoso. Qui la facciamo magari in maniera un pelino meno grintosa, però... Ti piacerà sicuramente. Ok, esatto. Poi magari la ascoltiamo, sì, come dopo, sarebbe. Sì, come dopo, dopo la sentiamo dal disco come prima sarebbe. E dopo. Esattamente. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Takes a little time, all I Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Erano sicuramente dei fantasmi gentili, decisamente. Persone molto bella, molto acustica, molto melodiosa la melodia, te la cantavi molto bene. E poi ragazze, dunque, Marco usa una Fender e mentre Massimo usa una Ibanez, Alessandro non so il tipo perché c'è una e basta, due chitarre, due mostri assolute, possiamo citare le marche, tanto sono famosissime e risapute. Quindi. Bellissima, una versione molto bella di questo pezzo dei fantasmi, decisamente rivisitata in versione acustica, in versione, dico, con la melodia, una melodia che viene fuori della tua voce, proprio calda si sente, meno male. Io l'ho sentita proprio così adesso, in questo momento. Ecco, questo è l'effetto strofa-ritornello. Sì, strofa-ritornello. Ed effettivamente... Dimmi. No, scusa. No, stavo pensando al discorso della malinconia che si diceva prima, su questo pezzo qua, in questo caso qui, è proprio è molto forte. Esatto. Sì. Poi tu hai colorato col tuo sì, abbastanza colplayana come idea. Sì, va. Ok, no. Vabbè, compleiana. Sì, sì. No, ma mi piacciono, quindi, anzi... Hanno ricevuto un altro premio recentemente, lo sai, no? Ci credo. Però non avevano il tempo di andarlo a ritirare, perché dovevano incidere un nuovo disco con Brianino. Lo sai che è il disco più venduto della storia, della EMI, a quanto sembra, la storia ultima della EMI, sì, il disco di Coldplay, insomma. Non mica male. Ha rilevato un attimo le sorti. Dell'etichetta. I tipi dei Beatles e dei Pink sono passati da un po' di tempo, da molto tempo. Ok. Adesso sono 22:51. Io proporrei di far sentire la traccia numero 2 per fare una contrapposizione. Certo. Traccia molto lunga, poi la sfumeremo. Michele è molto bravo a fare questa. La traccia numero 2. No, facciamo la 2 un secondo, Michele, per fare una contrapposizione. E poi arriveremo al famoso fatidico momento delle 23. Che voi non conoscete, mi pare. No. È una sorpresa. Adesso sentiamo la traccia numero 2, questi fantasmi. Stavolta da disco e non da disco. Acustici, ok? Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Go. chase me everywhere. I reach out for help and tumble into the void. Oh, no one's there. Sono le 23 e 0 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, è stata una faticaccia anche per il tastierista sicuramente, questi stop continui. Sì, sono tra chitarra e tastiera, sono all'unisono. Esattamente. Adesso sono le 23.54 e adesso c'è il giochino, 5 dischi da portare su un'isola deserta, poco da fare. Il famoso gioco di Rockway che continua da tanti anni e prosegue. Bene. Allora. A vostro piacimento, quello che volete. Ma inizia pure... Devo iniziare io? Ok, allora, come tra i 5 dischi che porterei sicuramente Actum Baby degli U2. Che verrà ristampato l'anno prossimo, lo sai, sì, in edizione deluxe, super deluxe, che hanno già fatto con gli album precedenti. Esattamente. Che ho comprato tutti. Bene, fa piacere. Lui è un super fan. Ah, un super fan di Bono e Company. Esatto, hai visto anche il concerto? Sì, sia Torino che Roma. Ah, però. Li ho visti tutti e due. Però. Sì, perché me li sono persi l'anno scorso, che ero in vacanza, e quindi... Sei un fan? Ho recuperato quest'anno. Benissimo. Ho iniziato a seguirli nell'87 con The Joshua Tree, quindi... Tanti anni fa, esatto. E quindi se dovessi scegliere appunto un album tra quelli degli U2 prenderei Acton Baby. Fatto proprio da spartiacque. È stata una svolta, chiaramente. Decisamente, a me è piaciuto molto tra l'altro questa svolta, anche se alcuni magari hanno storto il naso. Poi un altro album che porterei, porterei Scenes from the Second Story dei God Machine. Quella è una buona scelta, un po' particolare, ma una buona scelta. È un gruppo che magari non tutti conoscono, però dei primi anni 90 è stato... Michele non ce l'hai. È stata una band seminale per lo stoner rock, poi proprio dopo due dischi si sono sciolti. Sì, esattamente. Erano troppi cervelli, secondo me, troppi cervelli. No, troppi... perché altro perché uno c'è rimasto. Uno c'è rimasto, vero. Uno c'è rimasto. Questo quindi. È vero, però erano tante, tante persone di grosso calibro. Sì, però era veramente una band validissima. E li ho scoperti un po' in ritardo, però comunque mi sono piaciuti molto e mi piacciono molto ancora. Bene. Poi non fa mica male quando sono gli U2, no, infatti, sempre infatti, bene. Infatti. E un altro disco che porterei, un disco anche questo scoperto di recente, anche se è del 2000, Murder Noms dei Perfect Circle. Ah, però, non è mica male quello là. Il progetto laterale, diciamo, del cantante dei Tool, però esatto. È un gruppo comunque che definirlo progetto parallelo è un po' riduttivo. Vero, se hai ragione. Soprattutto con questo album, che è decisamente un ottimo album. Poi una scelta un po' inconsueta. Siccome a me piace ascoltare musica in base anche all'umore del momento, direi un album di Brian Eno e Harold Budd che si intitola The Pearl. Musica ambient. Molto sofisticata, molto Brian Eno. Musica ambient, molto si sente lo stile di Brian Eno e direi per i momenti in cui non voglio distruggermi le orecchie con musica un po' pesante. Va bene, lui va Harold sempre bene. Harold Budd e Brian Eno sono perfetti. Perfetto, e poi l'ultimo? Poi come ultimo brano porterei un album dei Talk Talk che è Spirit of Eden. Però i Talk Talk, quelli di Shash e Shame. Esatto, però in realtà questo album dei Talk Talk è stato proprio l'album della svolta, per cui dalle canzoni... Pop. Eccola qua. Ecco, è bellissima, questa è bellissima. Abbiamo suonata tutti, cantata tutti. Suonata no, ma cantata sì. No, i Talk Talk mi piacciono tutti, però Spirit of Eden è stato un album che dal pop rock commerciale si sono buttati proprio sul post rock. Con difficile anche. Strumenti di qualsiasi genere, coro, delle voci bianche, canzoni da 8-10 minuti. Sì, esatto, mi ricordo. E l'ho sempre amato tantissimo. Io ricordo di averli visti a Padova tanti anni fa, lui aveva gli occhiolini così, alla John Lennon, ed era straordinariamente innovativo, proprio si vedeva che era una star, anche se non era una star, però era un po' fuori del mondo, sì, decisamente sono fuori stati, del mondo. Secondo me sono stati molto bravi e negli anni 80 sono stati uno dei gruppi più originali. Sì, è vero, sono d'accordo con te. Sono stati, perché non erano assolutamente banali, no. Le loro composizioni avevano sempre qualcosa di ricercato, qualcosa di... Al di là dei singoli, dei pezzi famosissimi, all'interno dell'album stesso c'era sempre qualcosa di particolare, di ricercata, sì, di costruzione. Molto, molto bravo. Ok, tocca, bravo. Tocca a te, vai. Sì, io più che dischi parlerei di colori. Bene. E partirei dalla classica... Barocco, piace molto il barocco. E dopodiché non potrebbe mancare una Billie Holiday. Quindi jazz, ma il jazz è quello di grande spessore, sì. Vocalist, un grande vocalist, Billie Holiday. Avrei bisogno di colori, Coldplay e Muse sono buoni gruppi. Io resto sul presente come percorso. E dopodiché... come rock sicuramente i Deep Purple, che mio padre mi fece apprezzare all'epoca. Smoke on the Water probabilmente è uno dei, sì, uno dei pezzi di punta, ma poi vabbè, ce ne sono tantissimi, Madonna, tanti dischi che anche loro ovviamente come si usava a fare una volta pezzi da 23 minuti, certo. Non te li toglieva nessuno, è vero, sì. Beh, i Deep Purple hanno una capacità, erano bravissimi dal punto di vista dal vivo, erano straordinari. Sì. E mi piace moltissimo Steve Vai. Ah, Steve Vai che è un grandissimo professionista della chitarra, tu sei un chitarrista. Steve sì, Vai... ma lo apprezzo molto come artista perché ovviamente è un grande chitarrista, ma lo reputo a 360 gradi, sia a livello scenico che a livello di gusti, chitarre, colori. Lui è un artista pieno. Sì, un artista tondo, 160 gradi, cioè come giustamente hai detto, fa un po' di tutto. Sì, fa un po' di tutto. E va avanti su determinati schemi, produce tante cose. Insomma. E poi ce ne sarebbero troppi. Perché ne hai detti quattro colori, manca un quinto colore. Sì, quindi il tecnico, il rock, il passionale. Non mi farei mancare... Probabilmente un John Lee Hooker. Ah, quindi il blues praticamente. Sì, mi piacciono molto quei riferimenti. Quei riferimenti lì, sì. Ho fatto parecchio, mandato parecchio blues. Sì, classica l'ho già detta. Quindi, sì, quindi hai, grosso modo. Questi sono i colori tuoi. Diciamo che mi piace. Sì, non ho in realtà un genere prefissato. Sì, cioè, nel senso ho delle cose che mi fanno vibrare le corde emotive. Però mi piace ascoltare un po' di tutto, anche se non mi piace, nel senso capire perché non piace. Ok, ho capito. Voglio andare a fondo delle cose, quindi. Ok. Tocca a te, nostro bassista, stasera chitarrista acustico. Beh, io ho un brutto approccio con i titoli degli album. Perché ascolto... Vabbè, non importa, basta un input. Comunque, dai. Sì, ascolto anch'io diversi album di diversi generi, ma titoli non mi ricordo mai. Comunque, uno che per me non può mancare nei Dream Theater e Image the Wall. È un disco difficile, un genere difficile, un album, un gruppo mitico che ha avuto, che ha aperto le strade a tantissime band, tantissime, perché Dream Theater sono importanti per determinati suoni. Esatto. Sì. Poi comunque qualcosa di Mr. Big. Mr. Big facevano, che genere facevano i Mr. Big? Un po'. È rock di classe. Sì, è rock di classe. No. Rock di classe, sì, esattamente. Sarà perché forse c'è questo Billy Sheen che... Ecco, quello è importante. Sarà forse per quella. No, ma anche Paul Gilbert. Anche c'è il... cos'è? Il Sì, questo fine settimana c'è l'Eurobust Day a Verona. E fra gli altri c'è anche... Billy Sheen. Mr. Billy Sheen. Quello è un motivo collegato. Esatto. Ok, allora, poi dopo il terzo... comunque non mi dispiace neanche Jamiroquai. Ecco, adesso è uscito l'album nuovo, in classifica in tutto il mondo, quindi... Però soprattutto i primi album. Sì, perché adesso dopo tutte le Ferrari che ha comprato... Forse sì, esatto. No, comunque però è sempre un grande musicista. E sono arrivato a tre. Sì, tre sei arrivato. Poi comunque anche io i Muse. Muse, tutto o Muse solo particolare, solo genere, solo un momento particolare? No, tutto in genere. Ecco, Jeremy Quay in sottofondo. Tutto i Muse. E un album, fra l'altro, che non penso sia tanto conosciuto, che ho scoperto di recente, degli Ark, e che si intitola proprio Ark. Sì, ho sentito anch'io gli Ark. Non è chiaramente una band di vastità mondiale, no, però al suo pubblico, chiaramente. Attenzione, non sono da confondere con il VR, che è sì, un gruppo svedese. Esattamente, che è un po' diverso. Che cantavano, che fanno pop. Ok, sono le 23:10, abbiamo concluso questi, tu hai detto i 5 colori, Massimo ha dato una colorazione diversa e Alessandro un'altra colorazione diversa. La democrazia è la cosa più importante di una band, e questa è la democrazia al 100%. Facciamo adesso, Michele, la traccia numero 3. La 3, esatto, la traccia numero 3, che è un pezzo bellissimo, e dura pochissimo purtroppo, però è un pezzo meraviglioso, pezzo cantato da Alessandra... Angela. Fatta esclusivamente per lei, costruita da voi per lei. Ok, lo sentiamo adesso. Rock Wave, l'onda del rock. Our friends and lovers go. SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Diretta Rock Wave, punto altavista.org. Ci potete vedere e sentire stasera. C'è un po' di tosse, Michele. Sì, lo so, purtroppo capita, sono mali di stagione. Vabbè, è il bello della diretta. Il bello della diretta. Il colpo di tosse non doveva arrivare adesso, doveva arrivare prima, è arrivato adesso. C'è poco da fare. Ok, però ho bevuto sempre l'acqua, non targata, dobbiamo chiudere. Celentano, sai che quella, l'epoca famosa, hanno fatto vedere l'acqua senza tipologia commerciale, quindi la possiamo vedere. Si può fare, okay. Altrimenti pubblicità. Pubblicità occulta. Adesso tu hai detto giustamente una cosa. Ripetere il pezzo scritto per Angela, cantato da te, è bello lo stesso, però non è cantato da Angela. Esatto, per cui le case sono due, o prendo e me ne vado a casa, oppure lo canto a modo mio. Allora, questa volta. Stavolta lo canto a modo mio. Lo canti a modo tuo. Ripiloghiamo un momento come l'hai creato questo pezzo, l'hai già detto, ma visto che adesso lo citiamo, allora, lo mettiamo su. Il pezzo è stato composto, per quanto riguarda il testo, da me, mentre per quanto riguarda la musica è stato composto da Moreno Piccoli, che è il fratello del nostro batterista, pianista bravissimo, compositore, e abbiamo chiesto a lui proprio di scrivere un brano che avesse un po' questo umore malinconico. Questa malinconia, un pseudo dark, post dark, un po' la Lorena McKennitt, esatto, però un po' più dark, cupo, diciamo, esatto. Anche perché comunque si ricollega a Marble, quindi è stato creato, diciamo, un intro sostanzioso. Perfetto, ok. Si fa da introduzione al brano successivo, che ovviamente sia Heavenland che Marble Column, che il brano che viene arriva dopo, parlano entrambi della guerra, certo. Quindi diciamo non è un argomento così allegro, per cui la musica doveva essere in tono, un po' in tono, adatta a questo. Direi che è andata più che bene. Sì, benissimo nella fase che ho sentito io, adesso sta benissimo anche nella fase che costruite voi in questo momento, quindi diretta, live assolutamente. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Cascades of sunlight. One fine day we will walk away from here. One sweet day we will walk away. Of you and us, what's left over the Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, mentre questo pezzo meraviglioso andava, è arrivata una mail. Ciao ragazzi, avete anche una certa vena quasi progressive metal. Che dite di gruppi come Queen i Camelot e i Queensryche, dice Ermanno, un ascoltatore. Cosa dite? Cosa rispondete ad Ermanno? Beh, sono alcuni dei gruppi che amate di più. Il Camelot li conosco, l'altro no, però. Sì, i Queensryche, sì, sono, tra l'altro sono usciti di recente con un album dal vivo, molto molto bello, tra l'altro. E, sì, sono tra i gruppi che conosciamo, per cui i Queensryche, i Camelot, possiamo aggiungere Faithful Warren. Spock's Bird, ma anche per dire Dream Theater, oppure tornando più indietro anche Genesis. Ah, ok, ok. Sì, sono due dei gruppi che bene o male ascoltiamo anche per prendere anche ispirazione, perché alla fine non è che si inventa nulla. Certo, certo. La cosa importante è rielaborare le cose in modo da farle sembrare comunque, cioè che abbiano l'aspetto originale. Ok, ok, benissimo. E ringraziamo Ermanno che sta sentendo e che ha posto questa domanda, che ha colto giusto nel segno. Cosa dite? Sì, certo. Noi siamo comunque, alcuni ci definiscono progressive, alcuni ci preferiscono definire progressive metal. A noi vanno bene entrambe le definizioni. Perfetto. Diciamo che progressive probabilmente non è per, sì, ma di solito si intende un gruppo progressive, il gruppo molto tecnico, ecco, non è probabilmente il nostro caso, nel senso noi comunque sotto quel punto di vista lì siamo più rock progressive, quindi cerchiamo di dare l'anima senza troppo dare alla tecnica, insomma. Cioè la matrice progressive, sì, progressive, però certo. Dopo la con varie sfumature. Esatto, con le varie sfumature che avete deciso di fare. Avete quindi dato la vostra sfumatura a questo pezzo acustico, l'hai cantato benissimo, anche se non eri una ragazza, se non eri Angela, se sarà soddisfatta Angela se ti ha sentito. Penso proprio di sì, spero, me lo auguro. Ovviamente mi arriva un... No, se no fra un po' arriva un'altra mail. Non è stato soddisfatto. Grazie Massimo. Firmato Angela Merlin, hai distrutto il pezzo. Esatto. Ok, io proporrei questo, se siete d'accordo, di suonare un altro, visto che questa era molto leggera, era breve praticamente. Bene. Un altro pezzo live, cosa fate adesso? Questo è bello perché avevamo solo questi tre pezzi. Solo questi pezzi. Allora facciamo, sentiamo un altro pezzo dal disco, okay. E poi decidiamo cosa suonare. E che pezzo avete scelto dall'album adesso? Allora, facciamo il numero, l'introduzione tua, che è che la traccia te la ricordi? No, è la numero 6. È la numero 6, ok, sentiamo la traccia numero 6, la presentazione tua, la traccia, l'acustica, e poi vediamo di tagliarlo dove decidete voi di tagliarlo. Va bene. Ok. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Thank you. on in light. The river whispers quiet and slow in the frenzy of the night. The stars overwhelm my heart, scattered, leaving trace of bright. They were not united like we are, stars in the earthly sky. Come on, love, dance with me. Disguises to banish. Let run angels, let run in words. You'll find me and then vanish. So speak to me. For Congress has come running in the air. We can believe or pray or dare. But Congress has come running in the air. Take a look outside our love land. As far as the eye can see, this frenzy we live in will never end. And that's the way. children's mind. Take me to where the sun still shines. Take me to where our love's not bound. Do it now, see them coming round. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, il pezzo che abbiamo presentato si intitolava, il titolo? Si intitola Presentiment. Si intitola ancora adesso. Che ha, è diviso in determinate tracce, determinati momenti, determinati risvolti. Nel caso di questo brano abbiamo voluto fare un po' come facevano soprattutto negli anni 70 le band di rock progressivo. E abbiamo diviso l'album in, abbiamo diviso il brano in tre capitoli, come ad esempio facevano i Genesis con Supper's Ready, che certo, è diviso in sette parti. L'abbiamo diviso in tre parti che si intitolano Certainties and Doubt, la prima, tutta acustica, fatta da lui, esatto, la parte acustica, poi The Stranger, la seconda parte, e poi quella più cattiva, diciamo, la finale, Versus All. Una storia un po' lunga, vabbè, parla di una relazione sentimentale che non si capisce se funziona, se non funziona, se va avanti oppure no. È appunto diviso in queste tre parti che, che descrivono un po' l'andamento del pezzo. Questo pezzo, esatto. Diciamo cose, le note di servizio, il titolo dell'album, l'etichetta. Allora, l'album si intitola Searching for Reflections ed è pubblicato dall'etichetta Underground Symphony di Alessandria, di Maurizio Chiarello, che salutiamo, ciao Maurizio. L'etichetta assieme a noi ha curato anche la parte grafica dell'album, di questo se ne è occupato Klaus, sempre dell'Underground Symphony. E all'album, l'album allora è stato registrato agli Opal Arts Studio di Fabio Serra, ciao Fabio, ed è stato masterizzato agli Sterling Sound Studios di New York. Però sì, abbiamo avuto anche questa cosa, quest'ultima fase l'abbiamo voluta curare molto molto bene, ci inorgoglisce decisamente. E all'album hanno partecipato appunto alcuni ospiti, tra cui appunto Angela Merlin, che avete già avuto modo di sentire. Inoltre, sempre sullo stesso pezzo di Angela, il pianoforte e la parte appunto musicale è stata suonata e composta da Moreno Piccoli, fratello del nostro del batterista. Oltre a questo ringraziamo anche Ivan Caburlon, che ha suonato in due brani la chitarra flamenco. Tra l'altro Ivan è stato il primo cantante dei Metodica, poi per motivi personali di lavoro ha lasciato la band, sono entrato io. Però lui è venuto appunto in nome dell'amicizia che certo è rimasta, è venuto a suonare un paio di pezzi dell'album. Le date da suonare, avete qualche concerto da fare? Eccetera? Allora, abbiamo dei concerti già organizzati per il 2011, abbiamo un concerto a Vicenza al Jack Hall organizzato per febbraio, sì. E poi stiamo fissando un altro paio di date in alcuni locali, uno di Cremona e uno di Alessandria. Certo. Poi abbiamo una data già fissata al Black Rose a Brescia in maggio, e poi abbiamo una data abbastanza prestigiosa a Lugagnano in provincia di Verona al club Il Giardino, che ogni anno organizza il Prog Fest. Quest'anno invece del Prog Fest organizza un'altra rassegna che si intitola Prog Garden, i cui direttori artistici sono Gigi Cavalli Cocchi e Cristiano Roversi di Moon Garden, che hanno invitato anche noi a suonare in questa rassegna. In questo festival praticamente. Loro ci conoscono, gli siamo piaciuti, a noi piacciono loro come Moon Garden e Mangala Vallis, è nata un po' questa tra virgolette stima reciproca, per cui... Hai citato i Mangala Vallis, Fernando Lanzetti allora. Esatto. Abbiamo citato i Mangala Vallis l'altro giorno, proprio ieri, che abbiamo intervistato Fernando Lanzetti, e citava questo lui. Loro saranno a questa rassegna che si svolgerà in maggio appunto, sì, al Giardino. Come Mangala Vallis verranno anche loro a suonare. Bene, il disco vostro dove si può acquistare? Sul vostro sito? Allora, il disco si può acquistare sul sito dell'etichetta discografica, che è www.undergroundsymphony.it, e inoltre si può acquistare su vari mail order. In ogni caso, se visitate il nostro MySpace, che è www.myspace.com/methodicaband, potete trovare tutti i siti internet e i negozi fisici dove potete trovare l'album. L'album Bene. Si trova a Verona, ma si trova anche in negozi di Milano, Torino, Parma, Bologna, un po' sparso in giro. Bene, una cosa positiva. Qui avete modo di acquistarlo, di apprezzarlo, anche se non siete proprio di Verona e zone limitrofe. Ok, adesso non so se siete d'accordo, mettiamo su il pezzo che piace a me particolarmente, con questo alone, bello alone, pseudo alone dei Kansas, solo all'inizio, chiaramente, sì, che è la traccia, l'ultima mi pare, la traccia numero 7. Machine. Esatto. Machine. Sentiamo un momento la traccia numero 7. Perché a me è piaciuto particolarmente, forse è un prog un po' romantico, se mi è consentito il termine, non so se siete d'accordo, leggermente. Va benissimo. Sentiamo va benissimo. E poi continuiamo a cavalcare l'onda dei Methodica. Okay. Rock Wave, l'onda del rock. They told me to believe, they told me so, but now, so princes, kings and visionaries. Babylon, Jerusalem, and I've fallen from heaven. Talk but never understand all the rules from once to ten. Someone broke them once. Lying in a bed of cold, episode for happy cause. Babylon, Jerusalem, no more joy down from heaven. What he sang, the sweetest song, wrath is lost and strength has gone. No one would help him to come back again for the kingdom. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Siamo quasi alla fine del programma, ma non è ancora la fine, chiaramente. Parliamo un momento di questo pezzo, soprattutto dello sviluppo piuttosto complesso. Anche se poi, come abbiamo detto all'inizio, Machine ricorda a momenti iniziali un po' il prog, un po' melodico tra virgolette di Kansas. Poi, chiaramente, il pezzo è assolutamente vostro. Machine è stato uno dei primi pezzi composti, addirittura quando io sono entrato nella band nel 2002 era già formato, musicalmente era già formato, mancava solo il testo e mi hanno detto ok, pensaci tu, e quindi mi sono messo lì e ho detto ok, va bene, ci penso io. Si pensi te? Ci penso io. E Allora, strutturalmente segue sempre un po' la struttura che a noi piace, strofa ritornello, strofa ritornello. È una struttura che vogliamo usare perché comunque i pezzi vogliamo sempre che siano melodici, in ogni caso orecchiabili per quanto nel limite del possibile. Esatto. E ovviamente poi, come nella migliore tradizione del prog, dopo una prima parte cantata e molto forma canzone, ci lasciamo andare a parti musicali, parti strumentali più o meno tecniche. Quindi avete avuto modo di sentire la solo di chitarra, il solo di pianoforte e poi ci sono anche altre parti. A me interessa due cose. Sì. La solo di chitarra, come l'hai fatto, visto che sei qua davanti a me? Ma ti dirò, io essendo arrivato per ultimo, le strutture erano già pronte. E ho rivisto gli assoli, quelli li ho rivisti in toto. In toto, sì. Le parti unisono, quelle cose lì, forse ci ho messo qualche quinta o qualche terza, ma diciamo che le strutture erano già pronte, perché appunto i Metodica arrivano dal 96. Quindi ci sono in giro da un sacco di sì, tempo. Sì, esatto, in realtà. Quindi, tra virgolette, è stato facile. Che non c'ero nella costruzione. Gli assoli sì, mi hanno portato via un po' di tempo, anche perché comunque imparare questi brani hanno richiesto un po' di tempo, chiaro. Sì, e fatica, anche un po' di sudore. Ma è giusto che sia così. Poi Massimo ha la caratteristica che guida tutto quanto, praticamente la voce è la guida di tutto l'aspetto, sì, dei Metodica, è fondamentale. Assolutamente. Il basso che è qui davanti, adesso sulla chitarra acustica, però anche il basso è importante, la batteria è importante. Sì, ogni strumento ha un suo ruolo, cerchiamo di incastrarli in modo che non, cioè da non diventare ripetitivi, cerchiamo di, ogni momento ha un suo perché, quindi a seconda dell'esigenza decidiamo chi è più in rilievo e chi meno, quindi ma ripartono prima le tastiere con un suono un po' più incisivo, allora le chitarre stanno un po' indietro, fanno ritmica, magari cerchiamo di incastrare Alessandro ritmiche. Come si incastra praticamente? Diciamo che il basso in linea di massima segue la batteria, cerca di incastrarsi con la cassa solitamente. Ovvio che in alcune parti si richiede anche l'armonia, quindi cercare di risolvere certe note in maniera differente dal solito, quindi è ritmico sì, ma allo stesso tempo è melodico, perché si differenzia da quello che faccio io, da quello che può fare la tastiera, però comunque segue la batteria, quindi resta l'incastro. Massimo, l'idea adesso, il tastierista non c'è, ma puoi rispondere a te per lui, il discorso di questo piano che si sentiva un po' particolare, che dà uno stacco agli altri strumenti che poi riprendono gli altri. Sì, allora, è stato messo apposta, è stato studiato da Marco apposta per dare un taglio netto a quello che veniva prima. Perché siamo convinti che in una canzone comunque deve esserci sempre del movimento, soprattutto nei brani lunghi comunque serve dinamicità, il brano soprattutto appunto nelle canzoni lunghe deve raccontare una storia, quindi nella storia ci sono dei movimenti e la musica deve seguire questi movimenti, quindi parti movimentate, parti tranquille, parti melodiche e parti dure quando serve. Certo, certo. Machine in effetti rappresenta molto questo altalenarsi di momenti più intimi, come appunto la parte di pianoforte, il cantato soffuso, mentre poi lo stesso brano dopo 2 minuti parte con un treno. Esattamente. Chitarra e tastiera all'unisono, un suono di tastiera molto tagliente, un assolo veramente tecnico, e per poi ritornare nel ritornello e nel crescendo finale. Ecco, è questa dinamica che vogliamo mettere nei pezzi, proprio per rendere. E un'ultima cosa, questo è il pezzo numero 7, cioè la fine dell'album. Avete aperto con un pezzo tirato, un pezzo che era giusto alla finestra, da movimento. È stata una scelta Machine o è stata casualmente messo là? Secondo me è stato La scaletta è stata studiata. Eravamo indecisi sul pezzo finale e se la giocavano Machine e Marble Column. Siccome Marble Column appunto aveva il brano di Angela, certo, che faceva da introduzione, abbiamo pensato che tutto sommato era meglio mettergli al centro, certo, era proprio lo spartiacque, come tu spartiacque, come dici tu. E quindi la scelta alla fine è caduta su Machine. Poi tra l'altro Machine, avendo proprio il finale sfumato, la chitarra che fa suoni strani, il pianoforte che va in dissolvenza. Certo. Fade out. Sì, esatto, fade out, bravo. Termotecnico, come ha detto lui, bravo, lui esperto, è esperto, ha detto il punto giusto immediatamente. Ci sembrava proprio il modo migliore di finire l'album. Sì, okay. Abbiamo differenziato, di solito finiamo con Marble, sì, i concerti. I concerti come li finite? Con Marble, solitamente sì. E chiudiamo con Marble. Ho capito, quindi Neo chiaramente è l'apertura, quindi dovete scaldare la gente. Esattamente. E Marble serve per chiudere in bellezza, chiudere... Non però per lasciare che la gente non si muova, sì, si deve muovere lo stesso, però sì, a parte che, un movimento, diciamo, ragionato. Che, riscaldiamo l'ambiente con un... abbiamo creato un intro apposta preso dal film 300. Ah, quello che famoso film, sì. Esatto, quindi abbiamo, diciamo, ci siamo creati un ingresso un po' trionfale, però è molto di ambiente e si legava molto bene, beh, a Neil, che appunto poi rivedremo un secondo in acustico. Certo. E abbiamo deciso di introdurre così, che Neil ha un momento molto di calma all'inizio, che poi si sviluppa e talvolta partiamo con quella scaletta lì. Invece per i concerti più di botta usiamo Neon come... Un'ultima considerazione: il pubblico vi chiede qualcosa, qualche pezzo che vi fa un bis, che dovete suonare un'altra volta? Oppure... Come sotto, faccio l'ultimo. Esatto. Il bis, guarda, fatalità è... cioè è fatto da un pezzo che non è presente, nell'album, che si intitola Knast. Si intitola Knast ed è il primo pezzo concluso che... Sul cassetto, pronto nel cassetto. Per un prossima apertura, per una prossima incisione. Quello è il bis, esatto. Ok, e abbiamo finito questa bella cavalcata, con i Metodica. Abbiamo parlato del loro album, ucciso dopo molti anni di gavetta, possiamo dire questo, tanti concerti in giro per l'Italia, e sfortuna, che faticosamente avete superato, quello è importante. Però la svolta finale è stata l'incisione dell'album, è una cosa molto bella, come abbiamo detto all'inizio, vedere un album nei negozi di dischi o un album presente per poter essere venduto è una cosa meravigliosa, secondo me. Non mi ricordo, volevo dirlo perché mi piace. No, se abbiamo detto che appunto abbiamo fatto una presentazione alla FNAC anche. No, dobbiamo dirlo. Di, diciamo, Verona. E appunto con queste canzoni in acustico abbiamo avuto questa possibilità, che è stata una bella esperienza, appunto di proporre alla FNAC questo concerto acustico. E quindi diciamo che la FNAC di Verona, mi pare, non so se nelle altre FNAC c'è la stessa cosa, ti ha dato la possibilità, però lì è in vendita, si può trovare a Verona, quindi, la FNAC, allora. Sì. Ok, grazie Metodica, è stata una bella serata. La prossima settimana avremo un concerto dei Revive, che è un gruppo pop di qui di Padova, e domani avremo la presentazione di una manifestazione molto importante, i 20 anni dei Summertime. Ci sarà Agostino Spolaore al microfono. Grazie a Michele Toson, che ha curato un po' di tutto, cioè la regia e tutta l'organizzazione della trasmissione di stasera, e buonanotte a tutti. E i Metodica ci fanno sentire che cosa per concludere? Allora, il brano che vi suoniamo adesso è totalmente improvvisato, perché non ce lo siamo assolutamente Benissimo. Preparato a casa, non abbiamo studiato, e si intitola Nail in My Hand, il brano centrale del disco, nel senso che è il numero 4 di 7. Esattamente. Il 5, scusate, ho detto una stupidaggine. E comunque è una versione assolutamente improvvisata, assolutamente acustica, assolutamente più breve del normale, e soprattutto per chi conosce già il brano sarà assolutamente una sorpresa. Grazie e buonanotte a tutti. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. You are my broken bones, you are my blurry sights, you are the tar in my lungs that makes me cough at night. You are my twisted heart, London deaf to any call. You are the nail in my hand, you hang me on the wall, waiting in town, in a hot summer day, waiting in vain, you've never gone away, you've never gone away. You are the break in my fingers. You are the straw in my eye. You are the beam hanging over me. Over me but out of sight. You are the amputation. You are condemnation. Incurable sickness, mortal disease. Something that tells me I don't wanna heal. Waiting in town, in a white hot day. Waiting in vain, you've never gone away. You let me down, what you do and what you say. You get me pain, you've never gone away. You've never gone away. I still listen to you. Even now that I meet you with someone else. Someone who came after my love. When the secret roared and the morning was gone, will you leave him alone when the morning's gone? As you've done to me. Waiting in town, in a hot summer day. Waiting in vain, you've never gone away. You let me down, what you do and what you say. You get me pain, you've never gone away. You made me feel so alone. So long, though you've never gone away. Never, never, never, never. Never. Onda del Rock.